140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica e cinema nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. MA9 Promotion Milano. Dopo 4 anni di assenza dalle scene e molti successi d'autore, torna Fabrizio Moro. Il suo nuovo album si intitola L'inizio. Allora, intanto ogni nuovo album è un punto di partenza. Questo soprattutto perché sono passati 3 anni dalla data di pubblicazione dell'ultimo album all'incirca. È un nuovo punto di partenza perché io c'è stato un momento in cui avevo praticamente smesso di scrivere canzoni. Ed era arrivato un momento in cui non riuscivo più a trovare il mio punto di partenza, il mio diamante. Quando ho trovato la punta diamante, che è appunto l'inizio, e io non so perché succede sta cosa, cioè io sono ormai 20 anni che scrivo canzoni, ancora non ho capito perché quando stai col foglio davanti poi arrivano delle cose, no? E ho scritto più di 30 canzoni, alla fine ne ho scelte 9. Le altre stanno chiuse nel cassetto, sono state destinate ad altri artisti, come Sono solo parole, il brano che ho dato a Veronica per Sanremo, era un brano che doveva far parte di questo lavoro qui, come il brano che ho dato ad Emma per questo nuovo lavoro, il brano che ho scritto per Curreri per il loro trentennale, per il trentennale degli stadio. Insomma, poi si è sviluppata anche questa nuova attività, no? Di autore per terzi, che mi ha permesso di poter essere completamente indipendente dall'industria discografica. Questo è l'inizio. L'inizio è come l'oro, l'inizio di una luce che illumina il futuro. L'inizio, l'inizio, l'inizio. L'inizio è la ragione perché è l'indizio di una prospettiva, un punto di partenza che nasce per distruggere il dolore di una circostanza. L'inizio è solo un bambino che ha capito che non durerà per sempre il vitalizio. L'inizio non ha capelli, non ha occhi, né naso, né bocca. L'inizio è una striscia a mezz'aria che percepisce chi la tocca, e la tocca solamente chi è morto e risorto dal passato, come un prato bruciato che viene annaffiato, come chi si stende al sole dopo un'alluvione, dopo che in mezzo ai propri sbagli è affogato. L'inizio. Ha citato Veronica, cioè Noemi, lei è stata importante per te, perché insomma Sono solo parole ha avuto un grande successo, ma tu sei stato fondamentale per lei, perché con questo Sono solo parole lei proprio ha dato il via definitivo, secondo me, alla sua carriera. Tu ti senti un po' responsabile quando dai una canzone a qualcuno? Assolutamente sì, è un'attività che mi ha portato una grandissima soddisfazione. Ti spiego perché. Allora, io, una parte di me, quando do un brano a un altro artista, è come se una parte di me vedesse e visitasse dei posti in cui io non sono mai stato, andasse sotto il riflettore, come nel caso di Noemi, no? Sotto un grande riflettore, però il riflettore è puntato su Fabrizio, è un po' più piccolo. Quindi Fabrizio che fa? Sta seduto sul divano di casa sua e si gode, se così poi va, comunque, il successo, capito? E l'insuccesso, poi alla fine, se dovesse comunque accadere che succederebbe? Succederebbe che poi nessuno si ricorderà più che quella canzone lì ha scritta Fabrizio Moro, è una pacchia, capito? Senti, hai parlato del riflettore grande che è Sanremo. Tu a Sanremo hai fatto un successo straordinario. Guardandolo a posteriori, ti ha fatto bene quel successo così grosso o cosa? Perché è un grande onore, ma anche un grande onere, un'esplosione così grossa come la tua nel 2007. Beh, scombussolato praticamente la mia vita, il mio equilibrio esistenziale. Ovviamente ci sono dei momenti in cui ringrazio Dio per avermi dato questa possibilità, e ci sono dei momenti in cui quasi la maledico. Ha determinato, diciamo, una sorta di positività che poi si è continuata a sviluppare negli anni. Insomma, oggi sono una persona, diciamo, abbastanza fortunata rispetto ai miei amici di compagnia e ai miei coetanei. Intanto sono una persona che riesce a vivere e a fare il lavoro che ama, e attraverso il lavoro che ama riesce a vivere bene. Però, ecco, il successo di cui mi parlavi tu mi ha permesso di realizzare tutto ciò, però mi ha messo anche un grande peso sulle spalle. Alla fine poi, quando sono arrivato al festival, cosa è successo? È successo che c'è stato questo successo mega galattico, quindi tutto quello che è successo mi è stato cancellato. Il riflettore su di me si è acceso proprio con quella canzone lì, ed è stato per questo che in questi anni poi ho sofferto ho sofferto comunque un certo tipo di pregiudizio, ho sofferto comunque il fatto di dover comunque dimostrare che sono un cantatore all'altezza di quel brano, una serie di cose che comunque mi hanno complicato un po' la vita. Sapere ho le risposte che valgono oro, io so tutto sui giorni di Moro, potrei dirvi del botto di Ustica, fare chiarezza sulle storie di plastica, ho le risposte che viaggiano piano dietro l'asse Palermo-Milano, io so tutto sui troppi segreti dietro gli angoli del Vaticano, io so tutto di tutti, tutto, io so tutto, io so tutto di tutti. Di voi, di noi, di me, di te, io so tutto. Penza aveva un testo straordinario, un testo straordinariamente impegnato, l'abbiamo detto. Però tu comunque non ti dimentichi della storia, della nostra storia, e anche in l'inizio c'è un testo che è quello di Io so tutto, che è un testo che parla dei giorni nostri ma anche della storia recente, cita Aldo Moro, cita Ustica, ancora l'asse Palermo-Milano. Io ho avuto sempre un desiderio, no? Ancora oggi ce l'ho, purtroppo non lo esaudirò mai, ma ha sempre affascinato a me la vita di Giulio Andreotti, e io vorrei chiedergli delle cose prima di vederlo andare via. Cioè, vorrei fargli delle domande, vorrei chiedergli cosa è successo nei giorni in cui Moro era in ostaggio, vorrei chiedergli cosa è successo veramente ad Ustica, chi è veramente, chi c'è dietro veramente alla strage di Capaci e alla strage di Via D'Amelio, no? Chi c'è veramente dietro la strage di Piazza Fontana? Cioè, vorrei chiedere tante cose, cioè, per una passione mia personale con i confronti della storia, no? E sono sicuro che non troverei mai un libro migliore di Giulio Andreotti. Come faccio a far finta di niente se qualcuno mi offende? È un codardo che attacca per primo o chi si difende? Dove trovo 100 euro ogni mattina senza sgobbare come un mulo? Come faccio a dirti ti amo quando vorrei mandarti a fanculo? Soluzioni, soluzioni a quello che non so. Soluzioni, soluzioni, soluzioni. I giorni di oggi sono difficili. Anche quelli sono sotto i tuoi occhi, anche quello è responsabilità del cantautore, come lo intendi tu a questo punto raccontare. Io attraverso queste canzoni cerco di esorcizzare il disagio che per fortuna in parte non vivo più, ok? Però è il disagio che mi arriva indirettamente dalle persone che sono intorno a me, dai ragazzi con cui sono cresciuto, no? La maggior parte dei miei amici oggi comunque prende il sussidio di disoccupazione. In che quartiere sei cresciuto? San Basilio, è un quartiere di Roma adiacente al carcere di Rebibbia. Sono cresciuto lì. E lì ho i miei fratelli, cioè fratelli di sempre, le mie amicizie, i miei parenti. E comunque ti dicevo, oltre al fatto che io rispetto a loro sono stato, diciamo, una persona con una fortuna spiccata, percepisco comunque il disagio che la mia generazione e che la mia generazione stanno vivendo in questo momento, un momento in cui questo paese è completamente diviso, un momento in cui ci sono quarantenni che hanno un mutuo sulle spalle, chi ha avuto la fortuna di poterselo prendere, tra parentesi, e dei figli che sono disoccupati, un momento in cui si fa fatica soprattutto ad avere fiducia. E mentre stai dormendo, la luce della stanza è ancora accesa, ascolto il tuo respiro leggero. Chissà che cosa stai sognando, e intanto stai crescendo, e io qualcosa in più la sto imparando, tra i dubbi e le paure di sempre. Vorrei che tu ora fossi sveglio per leggerti una storia di principesse e draghi, di uomini invincibili come me. Ogni volta che tengo la tua piccolissima mano, sto imparando da te, sto imparando da te, che Capitan America è grandissimo, perché grazie a lui non abbiamo più paura di dormire. Sto imparando da te che l'immenso per me è aspettare Babbo Natale. Quanto impariamo dai bambini? Visto che tu in Babbo Natale Esiste spieghi dove stai trovando gli stimoli per imparare, per rivivere, forse anche per trovare questo inizio nuovo. Io sto imparando tantissimo da mio figlio, perché allora intanto adesso ha 4 anni e quindi è un momento di totale interazione, no? Fino a poco tempo fa non riuscivamo a comunicare perché lui non capiva la mia lingua e io non capivo la sua. Oggi c'è comunque, da pochi mesi comunque, c'è un momento di interazione totale, siamo diventati amici. E ho notato che, guardando, sai, mi fa un effetto, è stranissimo, perché c'è una controparte in tutto questo, no? Da una parte, mio figlio mi rende l'uomo più fragile che esista al mondo, perché io quando mi fisso sui suoi particolari, no? Ci sono delle cose che non posso guardare, tipo, che ne so, la scarpa da ginnastica piccola. Cioè, allora io lì, attraverso quel particolare lì, percepisco che lui è un essere veramente fragile e che dipende totalmente da me. Ma in quel momento lì io divento più fragile di lui. Dall'altra parte, quando devo affrontare comunque una situazione problematica, divento l'uomo più forte del mondo se penso che devo difendere mio figlio. Anzi, i miei figli, perché tra un po' saranno pure due. Quindi bello, complimenti, due. La famiglia si allarga qui, no? E ho notato una cosa, che quando, perché c'è questa fragilità, cioè perché avverto questa fragilità, perché sai che cosa succede che io rivivo il Fabrizio piccolo attraverso i suoi gesti, attraverso i suoi occhi, delle cose che comunque non ho ancora risolto, che forse non risolverò mai e che non voglio risolvere, perché poi è attraverso questa fragilità e queste paure che poi oggi mi posso permettere di scrivere una canzone, forse, no? E quindi attraverso mio figlio io sto imparando a conoscermi bene e soprattutto ad accettare i miei limiti. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Cinema Mexico, Milano. Irene, quarantenne, è single, ma non una donna a metà. Irene è Margherita Bui. In Viaggio sola, Maria Sole Tognazzi propone una nuova idea di donna. Proprio dal desiderio di raccontare delle donne non isteriche, non fallite, e dal... No, c'è una... Ormai sono informatissima, un 17% di donne sole, nel senso non senza famiglia, però indipendenti, serene, autonome, poi serene, la serenità cos'è, chi ce l'ha, chi lo può sapere, però diciamo che questa figura femminile un po' meno convenzionale, così nell'immaginario collettivo, mi interessava e l'abbiamo raccontata. Margherita è stata meravigliosa, ha interpretato questa Irene, che è poi un ispettore in incognito, per cui fa questo strano lavoro in giro per gli alberghi di lusso del mondo, e abbiamo unito uno strano lavoro e un'idea di donna nuova, e è uscito fuori il film. L'ambiente in cui si trova è sufficientemente confortevole e accogliente? Il concierge ha parlato all'ospite guardandolo dritto negli occhi? L'albergo fa uso di un'essenza particolare e distintiva sia nella hall che nelle singole camere? Scusi, lei mi sta dicendo che ci vuole passare il punteggio per questo piccolo incidente? È un 5 stelle, è un hotel fuori dal comune, che deve offrire un'esperienza unica grazie ad un servizio impeccabile. C'è giunta voce che in albergo c'è l'ispettore in incognito. Dietro di lei. Anche per te, Margherita, quindi un'idea di donna nuova è importante? Sì, io poi dopo, diciamo, ho fatto questo film partendo da un mestiere, partendo da un'idea, diciamo, ecco, di base, di una... Poi vedendo il film, poi mi sono resa conto di che potenza ha questo personaggio, nel senso che effettivamente ha una sua forza interiore, e una voglia di stare nella società in una maniera molto diversa. E finalmente ho fatto una cosa per me molto bella, molto nuova, ecco, quindi la ringrazio. Senti, posso farmi un bagno? Sei pazza? Tra poche ore di cena. E poi lo sai che sono contrario, no? Ma contrario a che cosa? Alla vasca, si spreca troppa acqua. Sai, no, che fra 20 anni non ci sarà più acqua. E allora facciamocelo adesso questo bagno, no? Ma stai fumando? No! No, no. Comunque tra 20 anni sarò morta. Non stavo fumando. Sì. Tu l'hai diretto, ma l'hai anche scritto. Tutti, ho letto tutte le interviste e tutti gli hanno chiesto se era autobiografico. Ti sei stancata di rispondere? Allora, sì, no, mi sono stancata. Dico che ho fatto questo film perché sono stanca di stare da sola. Sono troppi anni, ho esorcizzato tutta questa solitudine e ora basta, no. Intanto l'ho scritto con Francesca Marciano e Ivan Cotroneo, che ringrazio sempre, perché insomma un film scritto a 6 mani da sola non sarei stata mai capace. E di autobiografico c'è sicuramente il fatto che non ho ancora una famiglia e dei figli, che spero comunque di avere. Chissà, certo non sono proprio più ventenne, ma nella vita non si sa mai, ormai i figli si fanno molto più tardi, per cui potrebbe anche darsi che dopo questo viaggio sola non viaggerò più sola, chissà. Ma quasi quasi vengo a stare da te quando torno dai viaggi, eh? Senti, ma che dici, sarà troppo? Le candele, le rose? Sì, è un po' eccessivo, eh. Ah sì, eh? Tolgo? Ma no, lasciale, dai. Sei sicura? Sì. Vado io. Vabbè. Che fai adesso? Cinema. Ah, con chi? Io, me stessa e me. Bel gruppetto. Sì. Capisco il pomeriggio, ma la sera non ti fa tristezza? Il pomeriggio sì e la sera no. Con il progredire del giorno aumenta il tasso di disperazione dell'individuo. Cioè? Beh, poi te la spiego, eh. Ciao. Ciao. Può servire questo film a creare un ruolo nuovo per le donne al cinema? Perché insomma in Italia così così vanno le donne al cinema. Ma non lo so, a me un po' mi sono così anche ispirata, proprio perché ne sentivo un po' la mancanza di tanto perché sono sempre più gli uomini protagonisti al cinema. In questo film sono un po', lo ammetto, mi perdoneranno, ma sono un po' messi da parte, sono un po' di contorno, sono più le donne protagoniste. No, io non sono una femminista, ho grande rispetto delle donne, ho grande rispetto anche degli uomini, non faccio divisioni. Quando mi chiedono com'è una regista donna, vi dico sempre esistono registi, non riesco a fare distinzioni, però insomma l'idea di poter dare spazio a una figura femminile al cinema, che ogni tanto viene un po' sacrificata, mi fa un enorme piacere. Domani a che ora hai le prove? Alle 4. Allora l'accompagni tu, Eleonora, noto? Sì, sì, non c'è problema. Che c'è? Niente. Perché mi guardi così allora? Ma così come? Non ti guardi in nessun modo? Vabbè. Tommaso. Dimmi. Ma tu ci pensi mai a questa cosa? Quale cosa? Al fatto che... non facciamo più l'amore. No, io vorrei capire se proprio, non lo so, se è una cosa passeggera o se proprio dobbiamo metterci una pietra sopra. Tu che dici? Non lo so. Tu sei preoccupata? Un po'. Ma scusa, a te non ti manca? No. No? Cioè, sì, però sto bene anche così. Ah, vabbè. Sta bene anche così. Voglio dire, è ovvio, ogni tanto ci penso, ma non in maniera ossessiva. Non è che sto tutte le sere lì, Capito? Penso che sia dedicato anche a tante donne questo film, suo malgrado, nel senso che credo che ci si riconosceranno tantissime donne che comunque appunto hanno avuto una vita magari di lavoro molto importante o hanno scelto una vita appunto diversa dal solito, e però sono fiere di quello che stanno facendo, sono fiere della loro vita e hanno degli affetti che non sono quelli convenzionali, quindi hanno una vita piena di cose e penso che ci si riconosceranno tantissime donne, sono molto contenta di questo. Non ti capita mai di fare un sogno erotico? Che eh? C'entra? Non lo so, non ma non è normale, ma sì, è normale, magari si è capitato. E tu? Io sì, molto spesso ultimamente, ma sempre con qualcun altro. Ah. No, con persone assurde che nella vita neanche mi piacciono. Per esempio chi? Te lo devo proprio dire? Eh sì. Col tuo commercialista. Con Franconi? Sì. Ma come? Ma dai, insomma, è un mostro. E tu? Eh? Dai, sono solo proiezioni, io te l'ho detto, capito, il mio, dai. Dai, che ce l'hai? Vabbè, una volta con Antonella, la flautista, quella roccia, capito? Oddio, la cicciona. No. No. Oh. Oddio. Io credo che ne dovremmo parlare con qualcuno. Rubo un ultimo minuto a Maria Sole per sapere come hai trovato questo cast. So che Margherita la volevi da tempo. Margherita, sogno di lavorare con lei da 12 anni, lei lo sa, però evidentemente ci dovevamo incontrare ora e fra l'altro è stato un incontro bellissimo per quanto mi riguarda, perché sono pazza di gioia. Anche Stefano non ci avevo lavorato mai e mi faceva piacere, lo immaginavo giusto per questo ruolo qui. E che dire, sono stata premiata perché li ho tutti e due, sono meravigliosi insieme e il pubblico sono sicura che amerà rivederli insieme perché sono veramente belli da vedere. Adesso lo porti anche a New York questo film? Sì, cerco di convincere la Bui a venire con me. Vado la prima settimana di giugno, sì, sono molto contenta. Cinema Adriano, Roma. Un romanzo criminale francese, Le Guetteur, il cecchino, di Michele Placido, con Luca Argentero e un'attrice ora scoperta dai francesi, Violante Placido. La Penelope del gangster, che praticamente lo attendo tutto il tempo senza avere notizie. E così, in realtà forse lei è un elemento che vorrebbe un po' cambiare la vita del suo gangster e anche la sua, cioè l'elemento femminile che vorrebbe cambiare vita, trasformare le cose e riuscire a ricominciare da capo vivendo con dei progetti, perché poi stare con un gangster vuol dire stare con il batticuore continuo, è difficile fare progetti perché comunque è un ricercato, e quindi lei vorrebbe fare le valigie, partire e ricominciare la vita altrove. Quindi è, insomma, una Penelope col batticuore. Anche per te l'esperienza francese com'è stata? Francese è stata bellissima, croissant, bonbon. Perché comunque ho anche vissuto un po' a Parigi, è una città stupenda che adoro, e quindi è stata una bella esperienza nell'insieme, ritornare sul set con mio padre, con Luca, lavorare con degli attori strepitosi come Daniel Auteuil e Mathieu Kassovitz, vivere un po' a Parigi come se fosse un po' la mia nuova città, è stato bellissimo. Anzi, una sera in Francia ero a cena e stavo raccontando a delle persone che stavo lì, faccio: no, ma sto qui per girare questo film, e c'è Daniel Auteuil, così fanno: ah, Daniel Auteuil, ma tu reciti con Dio? ho detto eh sì, infatti è un onore immenso, nel senso che lui veramente in Francia, anche a casa sua, è proprio reputato. Violante, lo sai che poi la Francia le rapisce le attrici italiane, tu sei pronta? Ma magari. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.